o sentiamo urbiglia, amando la lione giovane, mi servo di odare, e per consolare il cuore, mi servo di odare, e per consolare il cuore, ma sappia le fini, servo